Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Il telefono è libero, insistiamo su questo, è assolutamente importante che Radio Alice non viva di informazioni false. Questa è la storia di Radio Alice, un'emittente cresciuta nella metà degli anni 70. Una radio nata quasi per gioco dalle idee di un gruppo di ragazzi e spenta nei giorni in cui Bologna era sconvolta dalla violenza. 1974. Nel movimento studentesco di Bologna nasce l'idea di realizzare una radio libera, fuori dagli schemi convenzionali e in dissidio anche con i gruppi organizzati della sinistra extraparlamentare, come ricordato dai fondatori di Radio Alice nel film di Guido Chiesa Lavorare con lentezza. La comunicazione era stata utilizzata dai movimenti, anche da quello studentesco, in maniera molto piatta. Fino a quel momento la radio era usata un po' come un megafono, le persone continuavano a utilizzare la radio perché arrivava a più gente. Come se il linguaggio fosse uno strumento per dire delle cose, mentre il linguaggio non è uno strumento, il linguaggio è un ambiente, è una modalità interattiva, è una forma di vita. Nessuno si era mai preoccupato di quale tipo di relazione, quali potenzialità erano contenute nel rapporto fra chi trasmetteva e chi ascoltava. Nel 74, la Corte Costituzionale vota una sentenza che dichiara illegittimo il monopolio statale sulla comunicazione. Erano nate le primissime radio libere. Fai conto che in Italia in quell'epoca ce ne sono state, non so, 5, 6, 4, 8, 12. Eravamo una generazione che la televisione era già venuta fuori, ma non è che ci interessava molto vedere la televisione. La radio era una operazione che costava pochissimo dal punto di vista economico. Era proprio la scoperta di un mezzo minore, poco interessante per i grandi gruppi della comunicazione. Della radio si comincia a parlare all'inizio del 75. Era il tempo in cui ci si chiedeva cosa fare, l'idea di muoversi sul terreno della comunicazione ci intrigava moltissimo. No, io non continuo, perché se voi non fate silenzio, specialmente quelli della comunicazione, che sono i più casinisti. Partecipai a una riunione al Gatto Selvaggio, di queste tipiche riunioni politiche che non portavano a nulla. Questa serata in cui si disse: ci vediamo che cerchiamo di fare una radio, cosa bisogna comprare? Sono tu. Ne avevo trovato in un deposito di surplus fuori San Lazzaro a Bologna, e ci andai in bicicletta, questo trasmettitore FM da carro armato. Lui era un grosso smanettone tecnologico, mi ricordo in casa sua era riuscito a bloccare con un grosso magnete il contatore dell'energia elettrica, per cui c'era questa idea di una tecnologia non da rifiutare ma da usare. Dopo lunghi mesi di gestazione, Radio Alice inizia le prime trasmissioni sperimentali sulla frequenza 100.6. Il nome è ispirato dal libro di Lewis Carroll, ma anche dalla figlia di Dadi Mariotti, una delle redattrici dell'emittente. La sede di Radio Alice è a Bologna, via del Fratello 41. Radio Alice per servirla. 100 MHz di tondi con Garibaldi e violoncello e rintintina allo scacciapensieri, una specie di costante sperdimento del livello normale della realtà, perduta nei tribunali sonori cui rispondiamo zut. Per non annoiarmi, quando sono in compagnia faccio, danzando, ciò che si è fatto, ciò che si farà. E questo cosa vuol dire? Questi piatti, questi bicchieri, queste bottiglie, la frase ripetuta, questi piatti, questi bicchieri, queste bottiglie. Andiamo via. L'emittente utilizza un trasmettitore militare, mentre il resto delle attrezzature proviene dalle case dei fondatori. Il gruppo che dà vita alla cooperativa Nuova Comunicazione, ragione sociale della radio, è formato per lo più da ex militanti dell'arcipelago dell'estrema sinistra. Viene fatta una cooperativa. La Nuova Comunicazione si chiamava. Regolarmente registrata. Però insomma quello che ci mancava era un posto dove trasmettere. L'abbiamo fatta a casa mia, credo per circa un mese ho continuato a abitarci, trovando sempre più affollato questo appartamento. Di qui non uscirò. un primo periodo si parlava di controradio. Il nome già dice tutto. Noi non eravamo contro. Proprio era l'esperienza politica che non ci interessava. Noi eravamo per noi stessi. Una notte a casa mia fumammo marijuana fino alle 8 del mattino. A un certo punto Luciano Cappelli, mi pare, disse Alice. Qui è Radio Alice. Ci piaceva questa immagine di Alice che rompe lo specchio e passa dall'altra parte. E poi c'era Alice, che è nata lì. Alice, mia figlia, che è nata lì. Ci siamo incontrati a mezzanotte e abbiamo detto, bene, adesso Radio Alice comincia a trasmettere. Io non so se qualcuno fosse sintonizzato sulla radio in quel momento. Radio Alice, per servirla. 100 MHz tondi, con Garibaldi a violoncello e ritintino allo scacciapensieri, una specie di costante sperdimento del livello normale della realtà, perduta nei tribunali sonori cui rispondiamo zut. E mandavamo su questi nastri, l'intervento in diretta, eravamo ancora troppo timidi per poterlo fare. Il progetto partì solo effettivamente il 6 febbraio 1976 alle 10 di mattina, eravamo in 7. Ricordo anche, ce l'ho io, il primissimo disco che fu messo sopra il giradischi. 26 gennaio 1976, iniziano le trasmissioni ufficiali di Radio Alice. Il motto è dare voce a chi non ha voce. Ironia, ribaltamenti semantici, trasversalità dei linguaggi, contaminazione tra discorsi pubblici e privati sono gli ingredienti forti del primo periodo dell'emittente. I punti di riferimento dei redattori di Radio Alice sono confusi. Qualcuno parla perfino di maodadaismo. Altri leggono i poeti e gli scrittori dell'underground americano. Altri ancora divorano le pagine di Majakovskij. Mao rappresentava in particolare questa idea di una rivoluzione che combatte contro la stessa istituzione rivoluzionaria. Ecco, questo della rivoluzione culturale ci piaceva, poi bisogna dire la verità, della rivoluzione culturale ne sapevamo pochissimo. Bom, bu, bipidi, bipidi, tonchi, tonchi, bipidi, bipidi, boppidi, boppidi, bom, bom, bom. Avevamo cominciato a fare questo giornale che si chiamava Attraverso, un primo tentativo un po' di rompere gli schemi della comunicazione politica. Ecco il militante che stampa e scrive da solo, stampa, distribuisce. Stampo, distribuisco, vendo, compro. Tutto, cioè praticamente l'accentramento capitalista impersonificato tutto dentro di me. Si parlava di poesia all'interno, si parlava di argomenti che con la politica, se vuoi, c'entravano poco e niente. Far risaltare in questa maniera l'elemento di ambiguità del linguaggio. Doppio slash, come si chiama la slash in italiano? Come si chiama? Come si chiamava la setta dei cavalieri in Guerre Stellari? Discorsi di questo genere parevano agli occhi di molte persone che stavano al di fuori della radio effettivamente dei discorsi deliranti. Devo dire che noi, un po' per vezzo e un po' per ingenuità, questo aggettivo delirante in realtà ci piaceva molto e ci compiaceva anche abbastanza. Cioè, noi ci parliamo con le cose serie, eh? Qualsiasi cosa si possa dire di Radio Alice, purché abbia imitato qualcuno e qualche cosa. Era anche un gruppo di ragazzi colti, bisogna dirlo. Molto dadaisti e molto Majakovskij. Probabilmente tutti leggono Majakovskij. Molto, molto, molto, molto Majakovskij. L'Antiedipodi di Deleuze Guattari, un libro di Hans-Jürgen Krall. Un saggio di Baudrillard. Sulla proletarizzazione del lavoro intellettuale. Strategia socialista per i mezzi di comunicazione. Ecco, non leggo del Catart, anche di Barros e di Gismart. Da una parte l'underground americano. È anche un po' dandy. Secondo me quello che è essenziale è che sono tutti impazziti. Ma come si viveva a Radio Alice? Chi frequentava quell'appartamento di via del Pratello 41 a Bologna? L'interno di Radio Alice. L'interno di Radio Alice era un posto dove oggi non vivrebbe nemmeno un kosovaro. Era uno strumento che fu utilizzato, fagocitato. Non pulivamo quasi mai. Qualcuno ci dormiva anche perché di passaggio non sapeva dove andare. Un'invasione di cavallette che entrano, usano, si divertono, parlano, ritornano, rifanno. Nel senso che se uno decideva di andare in radio, a fare una trasmissione, lo diceva ai suoi amici, ma guarda che probabilmente sono su alla radio, domani alle 5 faccio la trasmissione. Vi telefono per dire che Luca ha perso l'autobus, dovete fare la trasmissione voi ragazzi. È chiaro che per un tipo di organizzazione e di palinsesto come questo ci sono stati dei programmi meravigliosi, ma non potevi sapere quando c'erano. sociologia, la scienza delle minoranze. La nave di folli. Salario al lavoro domestico. Eravamo in 3-4, leggevamo. Chi stava al mixer? Chi ne aveva voglia stava al mixer? Cioè, questo è il concetto, non so se mi spiego. Chi veniva si dava da fare. E chiedere cosa devo fare io ti veniva risposto, trovatelo. Non si deve assolutamente cadere nella solita proposta del praticismo. Quando ho chiesto cosa devo fare io mi hanno detto trovatelo. Impossibile riuscire a governarla, e questo a me sinceramente dà anche un po' fastidio. Io avrei voluto fare una cosa molto più simile a Radio Popolare che a quello che fu Radio Alice. Si è sempre sconfitti, quindi... Io in fondo ho cercato di imporre alla radio tutta la sua vita una struttura. Ci fossi mai riuscito a spostarla. Poi dopo 20 anni mi dico, per fortuna, cioè aveva ragione la radio a voler vivere indipendentemente da me. Dopo la pausa torna il racconto di Giallo e Nero su Radio Alice. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Radio Alice va sempre in onda 24 ore su 24, anche se in alcuni periodi resterà assente dall'etere per giorni interi. Fin dall'inizio le telefonate degli ascoltatori vengono messe in diretta, senza censura alcuna. Con il passare del tempo, un numero sempre più ampio di non fondatori si avvicenderà ai microfoni, dando vita a quel flusso continuo che resterà il tratto distintivo dell'esperienza dell'emittente. Non conosco nessun altro strumento di comunicazione che sia totalmente liberato dai filtri e dalle censure. La reazione da un punto di vista dell'establishment fu di un sconcerto totale. E potete godervi un incesto consumato al ritmo di Charlie Parker. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male. L'inizio del re era l'inizio delle trasmissioni, la mattina si iniziava dicendo lavorare con lentezza e poi c'era le lezioni di yoga. Facevo una trasmissione che si chiamava Far finta di essere sani. Liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile. Questi argomenti, queste tematiche soprattutto in Italia non sono mai state dibattute, in pratica semplicemente probabilmente il movimento femminista ha posto alcune tematiche che partono per appunto dal corpo, quindi anche cioè, andando a investire con questo le scelte così sia sull'energia, sia sull'ecologia, sia sulla medicina che il capitale tenta di fare in questo momento. Il modello di partenza è agli antipodi da quello delle altre radio politiche dell'epoca, non una controinformazione, bensì uno spazio via etere a disposizione di una comunità aperta. Pur avendo degli appuntamenti fissi, la radio non avrà mai un palinsesto regolare. Nessuno sarà mai pagato. Per i capitali, Radio Alice si affiderà per lo più all'autofinanziamento. Un giorno si presentarono con una scaletta con oggi si chiamerebbe palinsesto rigido, ore 8 la tal cosa, ore 9 la tal cosa, la scaletta fu messa da parte e fu sostenuta la tesi di uno spazio bianco da scrivere ogni giorno. È un'onda dove le parole e la musica si mescolano continuamente. Se all'interno di questa nascono delle trasmissioni che hanno la loro sigla, bene, ma questo non spezza assolutamente questa continuità. Il modello era il nostro modo di vivere, era quello il modello. E forse qualcosa di un po' naif, visto da uno che ha 20 anni adesso, un po' fecchettone, no? Alice! In radio, quando portarono il telefono dopo i primi giorni di trasmissione, la prima telefonata che arrivò complimentandoci per la cosa fu messa in diretta. Ci ho mandato in diretta. Ci ho mandato in diretta. La radio vive di ascolto e vive del suo telefono. Che scemo. Ma messo in diretta. La gente ci veniva a trovare proprio, non solo telefonava, ci veniva a trovare, noi li ospitavamo e trasmettevano anche loro assieme a noi. Quel flusso determinava Alice in modo totale. Non è che ci fossero degli speaker alla radio che rappresentavano gli altri, erano gli altri che quando avevano da dire trasmettevano direttamente alla radio. Tra le passioni dei redattori di Radio Alice c'è il cinema. Nel gennaio 1977 esce anche nelle sale cinematografiche Qualcuno volò sul nido del cuculo, un film che rivela la splendida interpretazione di Jack Nicholson. Qualcuno si posò sul nido del cuculo, volò, si posò, all'embassy. Il cuculo, bestia strana che fa cucù, e dicono che è matto, nido del cuculo uguale manicomio, un filmone sulla pazzia, non in quanto tale ma in quanto funzione. Non ho voglia di essere criticone, sono uscito dal cinema piuttosto sconvolto. Siamo tutti indesiderabili, siamo tutti completamente matti. Jack Nicholson è stupendo, ed è la tranquilla, meravigliosa lotta contro l'istituzione. L'intelligenza rivoluzionaria che inventa favole in continuo, è bella, è molto bella questa intelligenza. I pazzi sono volontari, i medici, gli infermieri, i mostri del riadattamento, la donna assistente psicologa, eccetera, sono la vera pazzia, ma questo è chiaro. Il discorso è più o meno questo, e assomiglia molto a quello dei proletari senza rivoluzione. Alla fine il capobanda viene lobotomizzato e il grande capo indiano capisce tutto. Siamo nel 1977 e all'interno del gruppo che gestisce Radio Alice sorgono i primi problemi. Chi intende trasformare l'emittente in una radio vera, con scelte precise e palinsesto? Chi vuole mantenere le stesse caratteristiche degli esordi? Chi pensa di chiuderla per sempre? All'inizio tutti questi input, diciamo, della gente che veniva da fuori furono filtrati. Però nel giro di qualche mese tutto è cambiato, perché sempre di più è stata la partecipazione di massa alla radio e sempre meno la partecipazione del gruppo che ha creato la radio. C'è una fase in cui la radio viene attraversata dai movimenti dai quali giustamente pongono il bisogno di poter dire la loro. E noi, nel nostro spirito libertario, avevamo molte difficoltà sia a reprimere che a guidare questo processo. A giugno del 76 il gruppo fondatore della radio era completamente scoppiato. All'interno della radio ci sono stati scontri. Molte differenze convivevano. Io ero assolutamente per chiudere la radio, ancora una volta per spiazzarci, perché Alice non poteva ripetersi. Sono Alice, c'è anche la radio. Il piccolo gruppo praticamente esce da Radio Alice. Due di noi poco tempo dopo partirono per l'India e gli altri rimasero a Bologna a leccarsi le ferite. In quel periodo che abbandonai la radio mi dedicai all'amore. Mi ero perdutamente innamorato di una ragazza che avevo conosciuto nella radio, che mi era venuta a cercare quella che era la mia luce. Undici marzo 1977. Il rettore dell'Università di Bologna, Rizzoli, chiede l'intervento delle forze dell'ordine per sedare i tafferugli scoppiati alla facoltà di anatomia tra studenti del movimento e di Comunione e Liberazione. Un carabiniere replica al lancio di una molotov facendo fuoco ad altezza uomo. Francesco Lorusso, 25 anni, militante di lotta continua, muore colpito in pieno petto. Radio Alice diffonde la notizia dell'uccisione dello studente. Un imponente corteo attraversa la città scontrandosi in più punti con le forze dell'ordine. Vengono attaccate sedi di istituzioni, partiti politici e commissariati, negozi devastati, decine di arresti, numerosi feriti. Pronto? Dunque, allora, ci sono massimo una decina di persone, nessuno per cosa grave, le uniche persone in rianimazione sono alcune ragazze, però per i gas. Sì. Più che altro, però non è che ci sia. Poi ci sono soprattutto gli altri, sono quasi tutti passanti. Qualcuno è arrivato per fratture, ma è stato mandato a Rizzoli. Poi ci sono arrivati alcuni carabinieri. Sì. Feriti di striscio, hanno detto loro, da colpi di arma da fuoco. Sì. Poi hanno anche tirato fuori alcune notizie assurde, tipo macchine targate Roma, così, che giravano l'impassato sparando. Per due giorni Bologna è teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Radio Alice manda in onda le telefonate degli ascoltatori sparsi in giro per la città, che riferiscono degli scontri in corso, segnalano la posizione delle forze dell'ordine, incitano alla guerriglia o insultano i dimostranti. Attraversando via Belle Arti, sì, ho trovato appunto questi ragazzi che correvano in baltata perché dicevano che c'era gente con mitra intenzionati a sparare, e chiedendo a loro di cosa si trattava, mi consigliavano di andare perché era c'era gente con mitra che sono anche a sparare. Marzo 1977. La polizia fa irruzione nella sede di Radio Alice accusata di istigare e dirigere gli scontri. Alcuni redattori vengono arrestati. La chiusura dell'emittente avviene praticamente in diretta. Senti, c'è la polizia alla porta. Sono entrati. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, se questo fanno strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto. 13 marzo 1977. Per alcune ore, con mezzi di fortuna, la radio riapre sotto il nome di Collettivo 12 marzo. All'arrivo della polizia, i redattori fuggono dai tetti. 11 marzo 1977. I redattori di Radio Alice vengono ospitati da Radio Ricerca Aperta. Altri redattori di Radio Alice vengono arrestati. Radio Alice riapre in aprile e continua le trasmissioni per ancora un paio d'anni, ma senza l'apporto degli originali fondatori. L'autonomia operaia organizzata conquista l'egemonia dell'emittente, poi sarà chiusa per sempre. Quasi tutti i redattori di Radio Alice saranno prosciolti dai magistrati. L'inchiesta sull'omicidio di Francesco Lo Russo sarà archiviata. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline di Biacchessi @radio24.it.